quando a Roma c'era Mussolini, eravamo appena ragazzini, il sabato vestiti da balilla, andavamo alla donata, altrimenti la maestra alla scuola poi ci dava la suonata, quando a Roma c'era Mussolini. Si andava in bicicletta e sul treno popolare si parlava di starace che rompeva con il voi e con l'orbace. E Niccolò Carosi urlava: rete, rete o quasi, sui tiri di Meazze e di Ferraris, mentre Beltrame sulle copertine disegnava il duce che al balcone si sbracciava. Quando a Roma c'era Mussolini, a Leier c'era l'orchestra di Angelini, cantava Rabagliati a Vallarino. Quando la radio trasmette da Torino e portavamo fregi e fiocchettini, quando a Roma c'era Mussolini. Si cantò Faccetta Nera, via i cancelli e le inferriate, agli sposi via la vela, e restò senza caffè la caffettiera. E quando tutti al cinema andavamo, nei film luce vedevamo col falcetto in mano, e Niccolò Carosi urlava: rete, rete o quasi, sui tiri di Meazze e di Ferraris, mentre la Gin distribuiva M, Fez e Ghette, e sul regime quante barzellette. Quando a Roma c'era Mussolini, a Bologna schiaffi a Toscanini, aspettavamo